amore che sappia di te, con quel gusto un po' amaro di un vino da re, un ricordo che sciolga i ricordi che ho, per cui valga la pena di arrendersi un po'. Un amore grande che comincia piano e respira vento come gli aquiloni, fra radiazioni di invidia e follia, in un mondo che fa sempre meno poesia. Non so dove né quando e nemmeno perché ho capito di avere bisogno di te, di un amore grande, di un amore matto, di un amore tanto, di un amore tutto. E cammino di notte come i gatti e la luna, ma non cerco avventure, per fortuna già c'è questo amore per te. Un amore grande, la metà del cielo, per toccare il fondo, per spiccare il volo. Voglio un amore che sappia di te, che mi resti vicino anche quando non c'è, nelle notti di luna di un tiepido blu, quando un fiore lontano profuma di più. Un amore è grande quando fa sognare, quando fa soffrire, quando è un grande amore. Un amore profondo, confidente ed amico, il più antico, il più nuovo sentimento che c'è e che provo per te. Un amore grande, un amore immenso, un amore grande, un amore immenso. E cammino di notte come i gatti e la luna, ma non cerco avventure, per fortuna già c'è questo amore per te. Un amore profondo, confidente ed amico, il più antico, il più nuovo sentimento che c'è e che provo per te.